che si muore tra 70 anni sotto il sole. È molto tempo che ormai piove e il sole non si vede più. E tra gli ingorghi incolonnati li vedo tutti un po' affannati, uomini e donne su un sedile che ormai non ce la fanno più. E la luce risorgerà tra valli, boschi e città, in mezzo alla gente, tra sassi e pietre, come un fiore che nasce, sfiora il presente, è un simbolo di pace e segno di libertà. Dentro al reparto surgelati li vedo tutti un po' accaldati, bambini e donne col carrello che ormai non ce la fanno più. Ma noi eroi senza gloria non meritiamo di più. Vendere il culo per strada è una magra virtù. Scenario di uno spettacolo per un pubblico ipocrita. Droga e puttane di Stato con una paga astronomica. Luce risorgerà tra valli, boschi e città, in mezzo alla gente, tra sassi e pietre, come un fiore che nasce, sfiora il presente, e il fiore che nasce sarà segno di libertà. Di libertà.